Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Sono levato via quest'ora, dove sei stato? Ma lo sai? Cioè? Sono stato con Adriano! Con Adriano? Con Adriano, te lo giuro! Ecco Adriano, adesso glielo chiedi a lui! Pronto! Voglio scoperto tutto, non sono stato io! Chi è questo con cui sei uscito? Non nessuno! Dimmelo! Solo un bacio! Ti giuro che non succederà più! Mi fai schifo! Ci siamo, questa è una vicenda che può essere ripetuta in un'infinità di famiglie. Scocca la scintilla che determina la separazione di una coppia. Abbiamo lungamente e più volte toccato l'argomento della fine della passione, della fine dell'amore, dell'inizio delle pratiche legali, perché due persone che dovrebbero avere il loro legame benedetto dall'assoluto, dalla volontà divina, quindi indissolubile, quando hanno deciso e capito che ormai forse sarebbe il caso che ognuno prendesse la sua strada. Abbiamo visto quanto questo sia foriero di un'infinità di difficoltà, di lungaggini burocratiche. Qua ci fosse uno Stato che è complice di un potere spirituale e voglia dissuadere le persone a fare questo passo irreversibile di rompere sulla terra ciò che Dio ha legato in cielo. Però forse pochi sanno che da qualche settimana esiste una soluzione alternativa che i pochi fortunati informati che ne sono a conoscenza la stanno seguendo in maniera diciamo molto molto proficua. Si chiama negoziazione assistita. Di questo ci parla questa mattina l'amico Gianettore Gassani. Avvocato, buongiorno. Buongiorno. Ricordo, presidente dell'AMI, Associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani, autore del libro I Perplessi Sposi, libro che dice tutto ciò che può accadere quando comincia a esserci qualche dubbio sulla necessità di stare assieme per tutta la vita. Allora, Gianettore, la negoziazione assistita è un accordo definito fra due persone. Da qualche tempo è in vigore in Italia e pare ci sia la fila negli uffici comunali dove questa soluzione permette di risparmiare tanti soldi e di creare anche danni alla tua categoria, meno avvocati matrimonialisti. Sì, questo avviene quando a determinate condizioni. La negoziazione assistita ha introdotto la possibilità di fare le separazioni e i divorzi al di fuori del tribunale. Per cui un'attribuzione di responsabilità agli avvocati, perché poi le separazioni e i divorzi, se consensuali o congiunti, devono avvenire per forza in uno studio legale, quando, anche quando ci sono figli minorenni, figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, figli portatori di handicap. In questo caso gli avvocati possono intervenire, fare un vero e proprio contratto. Hanno 10 giorni di tempo per portare questo contratto in procura. La procura poi ha 5 giorni di tempo per stabilire se è il caso di omologare questi accordi o meno. Per esempio, se facciamo un esempio, intanto dico agli ascoltatori 800240024, noi l'abbiamo appreso grazie all'avvocato Cassani, anche perché non ci occupavamo del problema in questi ultimi tempi, ma quanti di voi hanno già avuto possibilità di sperimentare la negoziazione assistita, la possibilità di separazione quasi immediata senza necessità di ricorrere a un tribunale? Quanti ne hanno avuto buoni effetti e quanti vorrebbero saperne di più? Ci fa un esempio, Gianettore? Se per esempio i coniugi stabiliscono un assegno di mantenimento per i figli troppo basso, il procuratore della Repubblica può intervenire. Ma partiamo dalla base, prendiamo l'esempio dell'ultimo bacio, scoprono, addio, hai baciato un'altra, tra di me, fine, ci lasciamo. Sono d'accordo di non sta a perdere tempo con i tribunali, cosa fanno? Sì, dunque, ognuno ha un suo legale, i legali parlano. Quelli bisogna fare, trattano, ognuno si prende un avvocato comunque. Assolutamente, si trattano, bisogna vedere le condizioni, casa, soldi, figli. Se la gente è intelligente evita di andare in tribunale a scannarsi. Meglio mettersi d'accordo prima. Assolutamente sì. La fila presso gli uffici di Stato dell'ANACFA avviene invece in un caso particolare, cioè quando non hai figli, oppure i tuoi figli sono maggiorenni e camminano per i fatti loro. Non ci sono trasferimenti immobiliari e a quel punto già tutto puoi diviso, andare direttamente al comune e quindi firmare un modulo e in pochi istanti farla finita. Con 16 euro, costa 16 euro. Quindi faccio l'esempio, la coppia media, diciamo, che o non ha figli o ha figli grandi ormai che sono andati per la loro strada, che hanno già fatto la divisione dei beni. che tutto sommato hanno capito che, vabbè, ognuno per la sua strada, con 16 euro si possono separare. Assolutamente sì. Non c'è divorziare più, proprio. Non c'è più bisogno di noi. Io dico che questa sia una rivoluzione di civiltà, perché in effetti quando le cose ormai sono chiare, perché l'avvocato dovrebbe intervenire? Sono altri soldi inutili, lo dico io, contro gli interessi della categoria. Mentre ritengo che quando ci sono figli, trasferimenti immobiliari, è giusto che intervengano i tecnici, perché non si può pensare di fare un accordo stampando un modulo da internet, perché queste poi diventano situazioni serie, anzi proprio delle vere e proprie tragedie. A te risulta che molti stanno ricorrendo a questo istituto? Sì, diciamo che già a Roma ci sono state molte decine di coppie che si sono prenotate o che si sono già presentate al comune. Firenze, Torino, Milano si stanno attivando, quindi però devo dire che non c'è ancora una corretta informazione. Quella trasmissione di oggi è assolutamente provvidenziale, perché ancora arrivano telefonate nei nostri studi di gente che non ha figli, non ha trasferimenti immobiliari e vuole regalarci un po' di soldi. Non c'è più bisogno dell'avvocato, questa è l'informazione. 800 24 0024, visto che siete talmente tanto assatanati tutte le volte che parliamo di questi argomenti, per portare sul piatto il quaderno e il resoconto delle vostre lagnanze, questa è un'occasione per saperne qualcosa di più. Fammi capire, Gianetto, com'è di questa cosa? Noi stessi ne abbiamo avuto informazione sentendo te, se ne parla così poco, per questioni molto meno radicalmente risolutive, si sono impugnati crocifissi, sono state fatte crociate, com'è nessuna sentinella in piedi ha protestato contro questo strumento di dissoluzione della famiglia? Tendano a non farlo sapere? Ma io non sono un giornalista, non conosco la mentalità delle redazioni. Devo dire che probabilmente la strage di Parigi, le dimissioni del Presidente della Repubblica hanno distolto i giornali dall'attenzione di questa grande rivoluzione. Ovviamente resta un dato: quando si tratta di separazioni particolarmente complesse e giudiziali, l'avvocato è obbligatorio. Quando si tratta di questioni che riguardano gli aspetti economici rilevanti, l'avvocato è assolutamente necessario. Stiamo parlando di quelle coppie senza figli e senza soldi da dividere, che sono praticamente l'1% delle coppie che poi si separano. Quindi è una percentuale bassa le persone? Assolutamente sì. La vera novità è che sono gli avvocati che intervengono, non si entra più in tribunale, si evita la fila in tribunale, l'attesa di 7-8 mesi per avere un'udienza. Oggi in una settimana risolvi il problema, però purtroppo è successa una cosa: non è passato il divorzio breve. Per cui ci vogliono ancora 3 anni dall'inizio della separazione per avere poi per chiedere poi il divorzio. Quindi in buona sostanza il cerchio non è chiuso, perché abbiamo semplificato, sottratto alla giurisdizione, deflazionato il carico di lavoro dei tribunali, ma non abbiamo risolto il problema degli italiani. Perché? Perché ancora ci vogliono 3 anni. Questo è un paese purtroppo incivile da questo punto di vista, perché negli altri paesi in 2 mesi divorzi e basta, senza nemmeno passare per la separazione. Evidentemente c'è un minor senso di risentimento quando una persona decide di lasciare l'altra. Qua entrano in gioco dei sostrati familiari, degli orgogli sociali, insomma le persone non farsi la guerra comunque, te voglio far morire. Ma in Italia purtroppo il matrimonio e la separazione e il divorzio vengono visti in maniera molto molto passiva, e si fanno le guerre contro i figli, non a favore dei figli, si fanno le guerre per qualsiasi cosa. C'è un atteggiamento tipicamente italiano che non si riscontra in nessun altro paese al mondo: il massacrarsi in tribunale, pagare il migliore avvocato per ottenere l'addebito, per certificare una responsabilità. È una questione culturale. Io credo che qualsiasi rivoluzione giuridico-giudiziaria non servirà se l'Italia e gli italiani non cambiano, cioè i figli vengono considerati un bottino di guerra da sottrarre all'altro, da utilizzare contro l'altro. Angela, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo introdurre, mi sono inserita, anche se ho ascoltato soltanto 10 minuti della trasmissione, per parlare di un servizio di cui pochissimi sono a conoscenza, pochissime coppie separate o che sono in procinto di separarsi, che è la mediazione familiare, che è un servizio che secondo me, se istituito in modo capillare un po' su tutto il territorio, potrebbe funzionare, perché nel mio caso ha funzionato. Lei fa la negoziatrice familiare? No. Non esattamente, è un servizio fornito dalle ASL. Io non ho pagato nemmeno i 16 euro di cui parlavate prima, cioè noi non abbiamo, io e il mio ex marito non abbiamo pagato neanche quei 16 euro, perché ci siamo rivolti alla mediazione familiare per la gestione delle figlie minorenni entrambi, molto minorenni perché erano davvero piccole, sono tuttora molto piccole, Oltre ad aiutarci a come nel come gestire le bambine, quindi diciamo hanno fatto una proposta sulla disponibilità oraria del papà, eccetera, per come vederle, eccetera, ci hanno stilato, in base a quello che noi abbiamo detto, perché stiamo parlando di una separazione che era consensuale, cioè noi abbiamo fatto di tutto. Ma quando sei d'accordo, secondo me non ci sono problemi, anzi, perché l'interesse di uno coincide con l'interesse di l'altro. No, aspetti, perché non si è mai completamente d'accordo, se no non si arriva a una separazione. Diciamo che ci hanno instradato verso la strada migliore per potersi accordare. Ovvero, siccome, come diceva lei prima, riguardo quando ci si separa c'erano sempre delle recriminazioni, come diceva lei, non è che ci si separi proprio serenamente, allegramente, ecco, però rivolgendosi a questo tipo di struttura, se funziona, io sono marchigiana ma abito a Padova, sto parlando di una struttura di Padova che non esiste ad Ascoli, per esempio, o perlomeno se esiste non funziona. Noi ci siamo rivolti a questa struttura proprio perché, le ripeto, volevamo a tutti i costi fare una separazione consensuale, ma non c'erano i presupposti per farlo. Ferma lì, Angela, abbiamo dato già di questo, abbiamo capito che funziona, poi ci dirà l'avvocato Gassani. Anna, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccomi. Senta, io brevemente volevo sapere, non per me ma per mio fratello, lui è separato già da 3 anni e vorrebbe divorziare, però loro vivono in 2 comuni diversi. In quale comune devono recarsi per fare il divorzio? Vabbè, adesso non è che facciamo la consulenza legale in diretta, non lo so, guardi, stiamo parlando di una cosa, non è che vorrei sembrare scortese, ma essere di servizio non significa dare la consulenza. Vediamo Gianetto, se questa signora può dare il consiglio, andrà a un comune dei due. Ma il comune è convenuto, se si tratta di una giudiziale, altrimenti sceglieranno uno dei due. Fabio, buongiorno. Il comune, il tribunale, la competenza del tribunale, del circondario, certo. Del tribunale. A Fabio, buongiorno. Buongiorno, sì. Io volevo chiedere questo, faccio l'avvocato anch'io anche se in un altro settore, se questo negozio che viene stipulato tra i coniugi è passibile di annullamento per le tradizionali cause di annullamento dei negozi. Ah, questo è interessante. Cioè per dolo, per violenza, per causa fraudolenta e tutti gli altri vizi del negozio giuridico. Sì. Ma sicuramente sì. Allora, innanzitutto c'è l'obbligo deontologico dell'avvocato di informare incorrettamente la coppia di quello che sta facendo, perché firmare per esempio un accordo, certo, non sei sotto tortura, presuppone la conoscenza delle clausole e delle conseguenze. Per esempio l'assegno di mantenimento in sede di divorzio porta con sé poi l'assegno di reversibilità, porta con sé il TFR, bisogna informare le persone. Diciamo che forse la legge andava varata dopo l'obbligatorietà degli avvocati di specializzarsi, perché adesso qualsiasi avvocato, anche quello che si occupa di sinistri stradali, con tutto il rispetto, può tranquillamente cimentarsi in complicatissime vicende familiari e nessuno può dirgli niente. Dovevamo quindi prima imporre agli avvocati un livello di specializzazione altissimo e poi conferire all'avvocatura un potere e una responsabilità di tale livello. I tuoi avvocati si stanno specializzando, la vostra associazione? La nostra associazione sì, la nostra associazione, l'associazione degli avvocati matrimonialisti, come altre associazioni, si sta impegnando. Siamo un'associazione riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense, una delle pochissime, quindi abbiamo titolo per formare gli avvocati. Il problema è che non tutti i colleghi sono bravi in tutto, come io non posso fare diritto amministrativo perché non è il mio compito, ho diritto del lavoro, altrettanto trovo assolutamente poco deontologico e antisociale che un avvocato che fa tutt'altro si metta a fare poi gli abusi sessuali per sbaccare il lunario. Questo è gravissimo. Senti, rispetto a quello che ha detto l'ascoltatrice prima di questa forma di questo servizio presso le mediazione altre familiare. Mediazione familiare. Allora, innanzitutto i 16 euro li pagano le persone che hanno figli da contendersi. Parliamo di solito di persone anziane o di persone che hanno messo al mondo figli, quindi non c'entra il paragone con quello che avviene nei comuni. La mediazione familiare è una risorsa poco conosciuta, probabilmente i mediatori dovrebbero organizzarsi per creare un albo, un codice deontologico, tutto questo non c'è, è ancora a livello pionieristico, ma io credo fermamente nella mediazione familiare perché molte tragedie le potremmo evitare se sul nascere i conflitti possono essere in qualche modo bloccati dalla mediazione, perché ci si ammazza perché non si comunica, questo è il problema. Melog, cronache meridiane. Prima si diceva per esempio che l'uomo era sempre quello che chiedeva e la donna o il mal di testa, no? Si diceva allora vi faccio vedere il mal di testa. Credo che il mal di testa adesso prenda all'uomo quando la donna ti dice io e te dobbiamo parlare. Io è una cosa del genere. Guarda, tu me, io posso stare al telefono col commercialista 6 ore e mi passa tutto. Posso stare pure con la guardia di finanza al citofono e non, ma quando mi dicono io e te dobbiamo parlare, a me mi via la qua, vedi qua, tutto un dolore qua, mi salza il pelo come i gatti, e ho i piedi gonfi, non va idea, secchezza delle fauci, aumento della temperatura corporea, difficoltà di deglutizione, diarrea. Beh, certo, prende... l'avvocato Gassani aveva detto un istante fa l'importante è la comunicazione, e Brignano ci fa capire quanto, quale sia la reazione fisica, psicosomatica in un uomo quando una donna dice dobbiamo parlare. È un problema. Che vuol dire? Che se va in battuta diventa oggetto di satira, significa che è veramente difficile. Beh sì, però bisogna anche dire che molte volte gli uomini rifiutano, lo dico da esperienza di avvocato e matrimonio, se rifiutano il dialogo, trascinano avanti crisi che non finiscono mai, mentre la donna al primo problema va in crisi e immediatamente deve affrontarlo. L'uomo è proprio strutturalmente abituato a convivere col problema e non fare nulla per risolverlo. Per esempio, l'uomo sa perfettamente che in casa non c'è amore, non c'è armonia, non c'è sessualità. Continua a entrare, uscire, a pretendere la camicia, a fare zapping col cellulare, col telecomando, come se niente fosse. La donna invece non riesce a sopportare questa cosa. Ed ecco perché poi l'uomo, quando viene messo davanti alla resa dei conti, va in crisi. Alberto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Una domanda. Io sto per beneficiare della mediazione assistita. Ho tutti i requisiti, io e la mia moglie abbiamo tutti i requisiti, ma l'anagrafe di Reggio Emilia mi dice che poiché ho avuto figli minori fuori dal matrimonio, i miei requisiti decadono in virtù di una circolare del Ministero degli Interni. Volevo sapere se è vero. Ma mi devo accertare, però penso che ci siano dei diritti anche dei figli nati fuori dal matrimonio che vadano contemplati, perché nell'eventuale accordo bisogna valutare anche questi. Ora, lei ha già, quello che vorrei sapere, se lei già ha preso accordi con la mamma dei figli naturali, se vorrei capire, insomma, se già un ricorso congiunto, insomma, se sono garantiti gli assegni per loro. Se l'ha avvertita almeno, ecco, che sta succedendo questa cosa. Aldo, buongiorno. Buongiorno. Difficile uscire dall'avvocato a casa vostra. Prego, Aldo, buongiorno. Buongiorno. Premettendo che in questo caso non ci sono figli, se i due coniugi sono separati di fatto da moltissimo tempo e non hanno più rapporti tra di loro, non si conoscono nemmeno gli indirizzi l'un con l'altro, in questo caso vale lo stesso la corsia preferenziale? Ma se non vi comunicate, come fate a dirvi? Dovete andare insieme e firmare contestualmente. Chi volete separare? Ecco, in questo caso evidentemente la corsia preferenziale costituita dal modulo che costa 16 euro non si può fare, perché si presuppone che ci si parli, ci si metta d'accordo, si vada insieme, magari nella stessa macchina. In questo caso bisogna ricorrere. Ma non si può separare da solo, scusi, come fa a separarsi da solo? Sì, a questo punto ci vuole l'avvocato, perché se non c'è un accordo inevitabilmente bisogna andare dall'avvocato e poi dall'arbitro, che è il giudice. Io dico che in un paese litigioso come il nostro dovremmo imparare a dialogare e a trovare accordi. Invece no, questo è un paese in cui almeno il 40% delle separazioni e divorzi finisce in tragedia, in guerre infinite. Cambiamo la mentalità degli italiani. Però voglio capire una cosa, Giannetto, stanno arrivando tante telefonate. Sì, tutte consulenze. Sì, grazie. Però non è che faccio consulenza matrimoniale stamattina. Evitate di parlarmi di queste cose, perché non ne passo più così, perché sono problemi vostri, trovatevi un avvocato e rispondete. Io voglio osservare e valutare la filosofia di quello che sta accadendo nel nostro difficile paese. Abbiamo un espediente per separarsi in comune che penso non esista in pochi altri posti del mondo, non lo so, uno va in comune con un modulo e separa, poi comunque per divorziare bisogna passare altri 3 anni. Ma questa è la contraddizione tipica dell'Italia. Da una parte noi parliamo di sacralità del matrimonio, indissolubilità del matrimonio, e poi con un modulo in 4,48 con 16 euro facciamo saltare in aria un matrimonio. Ecco, ma perché nessun prete dal pulpito dice figliuoli non prendete il modulo, è del demonio? Nemmeno se ne sono accorti, o pensano che nessuno se ne accorga? Ma senza che se ne siano accorti, ormai probabilmente c'è anche una sorta di rassegnazione, ma dai, io non dico che va bene questo, però perché mi devi fare aspettare 3 anni per chiedere il divorzio? Cioè, questa è la del paradosso. Mi fai separare da mia moglie in 30 secondi, però poi devo stare 3 anni a aspettare il divorzio. Io credo che dobbiamo uscire fuori dalle sabbie mobili dell'ipocrisia, questo è tipico dell'Italia. Cerchiamo di capire innanzitutto se il matrimonio è o non è un contratto, perché voglio dire, ci sono tantissime correnti di pensiero. Se è un contratto, introduciamo i patti per i matrimoniali, forse probabilmente sarebbe la cosa migliore. Se non lo è, e allora a quel punto non possiamo utilizzare un modulo e 16 euro per far finire un matrimonio, mettiamoci d'accordo. Ma poi, qual è la filosofia che impedisce, che mi sembrerebbe la cosa più razionale, l'istituzione della legalizzazione dei patti prematrimoniali, che poi sotto sotto via via qualcuno li fa, in qualche maniera si fanno, soprattutto sui beni immobili, sul patrimonio, si può fare in qualche maniera. Ecco, qual è la filosofia? Perché non si può stabilire prima, perché che già si dà per scontato possa esserci una fine. Io non riesco a immaginare quali potrebbero essere le pressioni in tal senso. In effetti il matrimonio non è considerato un contratto al nostro ordinamento. E cos'è un negozio giuridico che è un cugino? Invece per me è un vero e proprio contratto. Quindi se viene considerato un contratto, a quel punto i patti prematrimoniali possono essere contemplati. Del resto in gran parte dell'Occidente funziona così. Ma questo è un paese molto strano, è un paese lentissimo per quanto riguarda le riforme e il diritto di famiglia. Non dimenticate che ancora le coppie di fatto, perché attenzione, questa legge tutela soltanto gli sposati, e come sempre tutte le persone che non sono sposate non hanno alcuna tutela. Fatti loro, non vi siete sposati, pagherete una pena, quindi sarete fuori dal codice civile, vi dovete arrangiare. Questo è un paese anche per strano. Assurdo, chi non è sposato, che avesse convissuto molti anni, fatto figli, diviso vita, oneri e onori, e oggi volesse separarsi, cosa deve fare? Niente. Allora consideri che un bambino su 5 nasce fuori dal matrimonio. In molte scuole a Roma la metà dei ragazzi vengono da famiglie di coppie di fatto. Nel centro nord, soprattutto in Lombardia, in Piemonte, in Liguria, le nuove coppie sono quasi tutte coppie di fatto, il matrimonio sta quasi scomparendo e facciamo finta di non vedere. E sono famiglie che mettono al mondo figli, pagano mutui, comprano case, portano i figli a scuola, hanno una struttura assolutamente sovrapponibile a quella degli sposati. Dobbiamo cercare di garantire almeno un minimo di diritti ai conviventi, per evitare che poi dopo 20 anni uno dei due possa mettere alla porta l'altro. E quindi credo che da questo punto di vista l'Italia rimane in un binario morto della tutela dei diritti fondamentali. Francesco, buongiorno, vediamo se ci tira un po' sull'animo, perché è abbastanza depressivo il quadro in sé. Prego Francesco. No, io ho un percorso completamente inverso. Dopo un grande casino che non vi racconto, mi sono separato con mia moglie, abbiamo fatto tutta la procedura col tribunale, tutto quello che serve. Se non che dopo un'ora separate o record, abbiamo riconosciuto che forse non dovevamo separarci. Insomma, siamo rimasti insieme. Se non che vado in comune, dico, ma vediamo di Ci avete ripensato? Abbiamo ripensato, insomma, abbiamo visto che probabilmente la cura giusta era questa, bisognava fare casino e poi è scoppiata la pace. Allora, il problema che mi rimane è che il comune non conosce una procedura per risultare di nuovo coniugati. Io praticamente non posso avere un documento di riconoscimento con scritto coniugato, ma risulto praticamente scritto e tratteggiato. Perché non vi risposate? Scusate, banalmente, perché non vi risposate? Ma perché ancora non sono divorziato, no? Divorziato da sua moglie, non può risposarsi. Se lei è separato, non è divorziato, il matrimonio è ancora in piedi, è ancora vivo, basta tornare insieme con sua moglie, il gioco è fatto, non c'è bisogno di fare comunicazioni o preso. Non o cerchi scuse, istanze. Via, che ancora ci vuole ripensare. Se ci fosse stato il divorzio, quindi la cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento del matrimonio, doveva risposarsi. In questo caso è separato, la separazione non uccide il matrimonio, lei è ancora il marito di sua moglie. Guardi, a tutti gli effetti non se ne è liberato. Se lei vuole prendere tempo o diciamo diluire e cercare scuse, bene, ma volendo sua moglie è ancora lì, bella, pronta, calda, se la può tenere per tutta la vita. Alla prossima.